Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Piccolo, stentato, facile al pianto, una vera seccatura. Non parla, non cammina, non gioca. Eppure gli stanno tutti intorno. E dicono anche che gli devo volere bene. È mio fratello. Uffa. E chi l'ha chiamato? Gli inizi sono sempre difficili, ci vuole un po' di pazienza e giorno dopo giorno quel piccolino che sembrava dare solo problemi, rubare tempo ed energie, l'usurpatore insomma, gradualmente si trasforma, diventa compagno di giochi e compagno di vita. Chi ha un fratello o una sorella lo sa bene. A voi com'è andata? Come avete accettato e vissuto quella che Marcello Ruffaut, che è uno psichiatra infantile considerato in Francia uno dei migliori specialisti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, definisce nel suo libro come l'intimità imposta? È vero, gli amici si scelgono, i fratelli si trovano. Ne parliamo oggi con la dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa, i fratelli aiutano a crescere, sono personal trainer emotivi perché con loro sperimentiamo complicità, ma anche momenti di crisi, rivalità, gelosie, tutto aiuta, si dice così, nel bene e nel male, tanto che la relazione che abbiamo costruito, vissuto, ritorna in positivo e in negativo in molte delle relazioni che instauriamo con persone con cui non abbiamo legami di sangue. Sì, sono d'accordo con lei su quello che dice. Io sono una favore, diciamo così, della famiglia più numerosa, quindi della fratria. Credo che sia davvero, come insegnano i Peanuts, un grande sollievo rispetto al dover essere tutti completamente concentrati su di sé, come accade nel figlio unico. Lei ha citato un bellissimo libro di Ruffaut che io amo molto, e lui infatti in questo libro parla del mal di fratello, no? Che è appunto questo rapporto fatto di amore e di rivalità. Io penso una cosa su cui forse possiamo discutere, che sono sicuramente i genitori che possono determinare una buona fratria o una fratria meno buona. Intanto si parte dal presupposto che i genitori siano sempre convinti che i figli si intenderanno perfettamente piano piano con i fratelli, e che oggigiorno va un po' più di moda rispetto anche a una ventina di anni fa aggiungere fra gli ingredienti di questi buoni rapporti il fatto che saranno gelosi, perché la gelosia insomma ormai la conosciamo, certo. I libri ne parlano, la radio ne parla, eccetera eccetera, ma di fondo sono convinti che il rapporto funzioni in quanto sono tutti figli d'amore, tutti figli della stessa famiglia, eccetera eccetera. Ecco, io credo che invece qui si debba fare attenzione, perché i rapporti fra i fratelli si costruiscono sulla base di relazioni affettive che, come diceva lei all'inizio, sono imposte, e che quindi abbiano invece bisogno di forme di attaccamento come qualsiasi altra relazione, che si stabiliscono in una, che secondo me è una parola chiave rispetto al rapporto fra fratelli, che è la condivisione. I genitori spesso si confondono e dicono a un bambino: via, bisogna regalarlo al tuo fratello, è tuo fratello, regaliamogli il maglioncino che tu non porti più, regaliamogli la bambola. Ecco, questa concezione di dono che spesso i genitori utilizzano in realtà fa appello a una scelta del bambino, ma come diceva lei prima, i fratelli non si scelgono, si trovano. Quindi noi bisogna piuttosto puntare sul tema del condividere. Quindi io posso condividere con mio fratello un maglione, una bambola o qualsiasi altra cosa, ma l'idea del donare sposta un po' l'asse dal quale ci possiamo muovere. Quindi questo fatto che i fratelli e le sorelle in realtà ci vengano imposti, bisogna anche far considerare, che ci faccia considerare bene quanta rivalità può insorgere fra fratelli. Questo non vuol dire affossarcisi dentro. Io come terapeuta infantile molto spesso vedo delle famiglie davvero in grave crisi su queste diatribe che ci sono fra fratelli. In realtà anche della rivalità bisogna riuscire a cogliere quello che potrebbe essere un aspetto decisamente positivo della rivalità, che è uno stimolo anche alla competizione. Quindi questo mal di fratello può essere davvero piegato e girato, tenendo presente che l'introduzione di un altro bambino in famiglia, per esempio, porta a un tema importantissimo come quello della democrazia e della giustizia. Lei parlava anche di come poi nel tempo, no? Certo. I rapporti iniziali fra bambini e genitori, ecco, quindi ha l'importanza, di nuovo ritorna una condivisione democratica degli spazi, degli sport, degli affetti, E non solo, i bambini imparano in questa maniera la tolleranza e il più piccolo ha una funzione, io credo, fondamentale di una rottura di legami che certe volte sono anche asfissianti e quindi hanno il compito, una frase più numerosa, di spezzare dei legami eccessivamente fusionali. I sociologi, per esempio, giustamente dicono che si rompono con più facilità i legami fra fratelli che non i legami i genitori, e questo credo che sia un dato incontrovertibile. Sottolineava anche l'arrivo di un secondo, di un altro fratello, rompe un po' alcuni equilibri, forse fornisce la base per crearne di nuovi, perché è indubbio, il momento in cui si arriva in famiglia fa differenza, come anche la compagnia che si trova ad attenderci. Essere primogeniti, ad esempio, investe di alcune responsabilità. Allora, Matteo, ora che è nato il fratellino, mamma ha bisogno d'aiuto. Ormai sei tu lo metto di casa. Pensa che io sono figlio unico. Avrei pagato qualunque cosa per avere un piccoletto con cui giocare. Io stavo benissimo da solo e non mi piacciono i piccoletti. Come non ti piacciono, scusa, sono bellissimi. Non ti far ingannare, non sono così come sembrano. Mangiano, pisciano e cagano. Ma soprattutto cagano, perché dovrebbero piacermi? Cagano molto. In continuazione, l'aria è irrespirabile. E poi piangono sempre, la casa è diventata un inferno. Un inferno? Piantarello ogni tanto? Tutte le notti, di solito un attimo dopo che ti sei addormentato. Perché loro sanno quando ti addormenti. Loro. Ero viziato e coccolato. Adesso non mi caga più nessuno. Perché dovrei essere contento? Eccola qui, a chi non è capitato di sentirsi dire tu sei più grande, devi avere pazienza, perché i genitori, come anticipava la dottoressa Trinci, consapevolmente o inconsapevolmente, interferiscono e condizionano il rapporto che si instaura tra fratelli. Ne parliamo oggi con il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore, psicoanalista freudiano, autore di E adesso cosa faccio? Ripensare il rapporto tra genitori e figli. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno Nicoletta. I genitori mettono anche delle etichette. Certo. Mettono anche delle etichette e dobbiamo stare attenti come genitori, perché tecnicamente si può dire noi diventiamo predittivi, vuol dire che quando iniziamo a dire tu sei quello che e poi mettiamoci una X, qualsiasi cosa, quello che non mangia la pasta al sugo, quello che non sa fare lo sport, quello che non capisce la matematica, quello che non imparerà mai niente, quello che è un patatone, quella X poi ci si stamperà addosso, esattamente proprio come un'etichetta. E a volte come genitori facciamo davvero iniziare delle carriere ai nostri figli, delle carriere magari di non sportivi o di non bravi a scuola, per cui stiamo attenti con il nostro tu sei quello che, anche perché spesso il tu sei quello che non lo diciamo magari direttamente al ragazzo, ma lo diciamo agli amici quando parliamo di lui, no? Diciamo, allora sempre molta precauzione, perché queste etichette a volte si attaccano addosso, proprio si appiccicano, sono adesive e hanno le conseguenze nel futuro. Dottor Ballerini, dottoressa Trinci, per aiutare i nostri ascoltatori a ripensare un po' le relazioni che hanno delle fraterne, quali sono le domande che possiamo utilizzare per dare un peso, per capire ad esempio quali tratti della nostra personalità derivano dal rapporto che abbiamo avuto con nostro fratello? Ci sono delle persone che sono molto competitive, spesso si pensa siano nate da una famiglia in cui la competizione era particolarmente stressata, o persone che hanno poca autostima. Io non voglio qua buttare la colpa sempre ai genitori o a delle relazioni che non si sono sviluppate in armonia, ma ecco, che cosa ci può servire e cosa ci può aiutare a riflettere sulla relazione? Ma io invito anche i figli unici, perché magari hanno cercato altrove queste dinamiche con i non fratelli. Ecco, che cosa ci può aiutare a riflettere e a diventare un po' uno strumento? Noi cerchiamo di lavorare per il nostro benessere, quindi per il nostro equilibrio. Dottor Ballerini. Io spesso faccio la battuta che l'autore del celebre salmo "Com'è bello e com'è dolce che fratelli siano insieme" probabilmente era un figlio unico, per cui di solito faccio un po' questa battuta, perché se poi andiamo a guardare nelle case non è vero che c'è sempre armonia tra i fratelli, e la dottoressa Trinci l'ha detto più che bene. Allora, qualche volta possiamo aver percepito che il nostro fratello o nostra sorella ci ha fatto un danno o ci ha provocato uno svantaggio invece con vantaggio. Piuttosto che tenerlo lì e covarcelo, magari che poi diventa rancore o rimuginazione, potremmo anche vedere insieme, ma che cosa è accaduto davvero? E magari quella volta che quella mio fratello volta che, mi ha fatto un danno. Mi ha fatto un danno. Dottoressa Trinci, lei cosa lancia? Io lancio un appello, cioè io credo che davvero i genitori possano aiutare moltissimo i bambini in quello che già diceva Ballerini, cioè a esprimersi fino da piccoli. Io vedo che quando arrivano in ambulatorio e magari io dico però non solo tutte le cose sono state dette all'inizio, non ha capelli, non parla, puzza, alla parola puzza, soprattutto se il bimbetto c'ha 5-6 anni, si sganascia dalle risate ed è davvero un momento liberatorio, cioè costruire, andare a cercare dove il rapporto, come e dove il rapporto si è costruito, quanto anche sofferenza c'è stata nell'essere stati in qualche maniera spodestati rispetto al fratello, però andando anche oltre al luogo comune poi, che potrebbe sembrare un po' questo, cioè andando a ricercare anche l'utilità, quindi il danno ma anche l'utilità, quindi non è che il fratello è utile. Limiti e risorse. Esatto. Cristina, da Cagliari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Figlia unica? Io sono una mamma, sì? Una bambina di 5 anni. Sì. Niente, volevo porre l'attenzione relativamente alla differenza di età tra i figli. Ora mia figlia verosimilmente avrà insomma un fratello o una sorella e avranno appunto questa differenza di età. Volevo giusto capire insomma, che, come valutano le differenze di età tra fratelli, come risorsa, quale differenza di età è meglio o peggio, insomma, giusto questo spunto di riflessione. Grazie. Dottor Ballerini. Ma è una domanda che fa bene a porre, perché spesso anche nella mia pratica professionale vedo delle famiglie con più figli in cui si tende ad avere un certo livellamento verso il basso, per cui quando c'è ad esempio adesso 5 anni di differenza di età sarà 5 verso 0, poi sarà 10 verso 5, sarà 15 verso 10, allora il rischio è andiamo tutti a letto alle 9. Dovete sì. andare tutti a letto alle 9 perché lo fa il più piccolo. Sì. Allora, il rischio di un livellamento verso il basso dobbiamo tenerlo presente. Dobbiamo sempre far capire ai più grandi che c'è un vantaggio a essere più grandi. E allora scoprire qual è il vantaggio, che potrebbe essere magari fare anche delle differenze, perché la differenza d'età può permettere delle differenze. E il genitore non deve essere spaventato o preoccupato di una equità assoluta. Dottoressa Trinci, consigli per genitori che hanno figli con una considerevole differenza di età. Il rischio di chiedere al primogenito, al più grande, di trasformarsi in una sorta di babysitter e quindi di dirgli devi avere pazienza, fallo giocare, accompagnalo tu è alto. E chissà, io immagino ci siano tanti nostri ascoltatori che si sono ritrovati in questa situazione di accudimento verso il più piccolo, delle sorta di mammine nei confronti del fratello o della sorella minore. Sì, dunque intanto rispetto a quello che diceva il dottor Ballerini mi trovo perfettamente d'accordo, che il livellamento verso il basso non permette nemmeno di godersi pienamente il genitore, perché mettiamo che una signora rimane in gravidanza e il bambino piccolo ha 2 o 3 anni, praticamente nell'uno o nell'altro c'ha un pieno di mamma, no? Che tante volte rimane poi la fame nei bambini. Su quello che diceva lei, il ruolo di protezione è vero, c'è il rischio che il bambino negli eccessi diventi il mammino, il babbino, quello che è eccessivamente investito di responsabilità. È anche vero che se sostenuto e aiutato nel ruolo di maggiore, lavorando proprio sulle differenze fra l'uno e l'altro, poi il bambino lo trova il ruolo per certo. diventare quello che protegge. Io ho visto per esempio una bambina recentemente che inizialmente ha avuto molta difficoltà ad accettare la nascita del bambino nuovo arrivato, peraltro un prematuro e quindi aveva assorbito completamente l'energia dei genitori. Poi piano piano i genitori sono stati molto bravi nel sostenere questa bambina, nel farle vedere che lei poteva andare a fare delle cose che il fratellino non faceva, che loro, insomma, mostrando un po' in maniera sincera la realtà della famiglia. E la bambina è arrivata a un certo punto della sua crescita che di fronte alle lacrime del fratellino, erano entrambi in studio da me, gli ha detto ma perché piangi? Siamo qui, c'è la dottoressa, ci sono il babbo e la mamma, ci sono io che sono tua sorella, per quale motivo piangi? No? Ecco, piano piano la bambina era riuscita a trovare il suo ruolo importante di sorella più grande. sfigato, coccolato e a tratti persino viziato, coccolato e pacchi su pacchi di ricchi natali, parenti sorridenti intenti a lasciare regali, e poi arriva il piccolo scazzando ogni giocattolo, diventa lui la star. Di differenze continueremo a parlarne tra poco, ma io direi puntiamo invece sulle cose che legano i fratelli. Che cosa hanno in comune? In linea con noi la dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. A parte le differenze, perché ci sono fratelli che si assomigliano molto, stesso colore di occhi e di capelli, stessa altezza, stessa corporatura, altri che non si assomigliano per niente, ma dottoressa Luini, con i nostri fratelli condividiamo? Condividiamo parti di DNA, alcuni di noi condividono tanta parte dei geni, altri magari condividono meno geni, però di fatto c'è il DNA in comune. Detto per inciso, io sono primogenita di 4 fratelli e sono tipicamente la primogenita seria, posata, brava e intelligente, mentre mio fratello Filippo è quello alto, biondo, occhi azzurri e simpatico, no? Che sono delle generalizzazioni, però in realtà ciò che condividiamo con i fratelli è il DNA. DNA che però può essere influenzato nella sua espressione dall'atmosfera, dalla cultura ed ecco, e da come veniamo trattati quando nasciamo. Primogeniti più responsabili, secondogeniti si dice più estroversi, ma una cosa è certa, almeno la ricerca lo dice, che i primogeniti siano più vulnerabili, ad esempio nei confronti delle allergie. È possibile, dottoressa Luini? Sì, mi sono chiesta anche il perché. Credo che una delle possibili spiegazioni, anche se non l'unica, sia che di fronte al primo figlio siamo sempre un po' iperprotettivi. Allora, sapete che le allergie si scatenano anche quando siamo un po' troppo attenti a quello che fanno i bambini. Non fare questo, non andare lì, non andare in giardino, non giocare con la terra, non toccare gli animali. Dal secondo figlio in poi la produzione di anticorpi è un po' più facile perché i genitori mollano un po' le redini. Questa può essere una delle spiegazioni. Il terzo e il quarto vanno da soli. Se la cavano perché sopravvivono fin da bambini a ogni tipo di stimolo. Ora sto generalizzando, però in effetti non c'è una spiegazione genetica. Certo. C'è il fatto che però nei confronti del primogenito non solo abbiamo più aspettative, sì, ma anche cerchiamo di essere un po' più protettivi. Poi capiamo che forse l'aiuto sta anche nell'indurre i figli a cavarsela da soli. Essere e benessere. Il fratello era più alto, più muscoloso, più intelligente, correva fortissimo, correva sugli alberi, faceva tutto lui. E mia madre complice, mi comprava tutto nuovo. Un giorno, una domenica, mio padre lo nominò fratello maggiore, mi mise i gradi qui. Io fratello semplice, lui fratello maggiore. Lui tutto, io niente. E mia madre gli comprava il golfino, e la camicina, e la bicicletta, e il pantaloncino, tutto nuovo, golfino a V nuovo, io non ho mai avuto un golf con l'etichetta. Avere un fratello è un fattore protettivo, alcune ricerche dimostrano che in qualche modo questa sorta di palestra emotiva ci tiene lontano anche da una serie di disturbi. Si dice che avere una sorella femmina, sia un vantaggio in termini proprio di crescita, di equilibrio, ma di questo parleremo. Ma una cosa è certa, il fratello può essere anche un fattore predittivo di alcune malattie. Dottoressa? Se analizziamo le famiglie, quindi i fratelli, possiamo anche comprendere quali siano le tendenze genetiche. Ora, dal punto di vista della protezione, è vero che le famiglie un po' più numerose hanno una migliore protezione sotto tutti i punti di vista, anche psicologico. È altrettanto vero che alcune malattie, alcuni disturbi piuttosto gravi hanno anche tratti genetici. Osservare cosa succede ai fratelli è molto importante. Dottoressa Luini, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Le sarebbe piaciuto nascere secondogenita o è contenta di essere primogenita? Sono contenta così perché amo i miei fratelli, però è molto scomodo essere primogenita e seria. Grazie alla dottoressa Luini. Maria Pia, grazie e buongiorno. Il numero perfetto di figli e dispari è 3 son troppi. Perché Maria Pia, lei in che famiglia è capitata? Io ho una famiglia normalissima dove per 7 anni io sono stata la figlia unica di tutti, dei nonni, degli zii, di tutti quanti. Poi è arrivato mio fratello. E già la e voce sono... cambia, vede. Poi è arrivato mio fratello, dottoressa Trinci. Ha sentito l'intonazione che è cambiata, sì, ma io me ne rendo conto. Grave. È arrivato Io non l'ho mai accettato, cioè sono passati 50 anni, 52 anzi, però io continuo a non accettarlo. E lui lo sa. Ma lui è lo stesso, cioè noi siamo due figli unici cresciuti occasionalmente nella stessa casa. Questa intimità imposta, come scriveva Marcello Ruffo, questo le ha tolto, le ha aggiunto? Che cosa? Questa le ha tolto molto, sì. Perché invece sono capitata in una famiglia, quella di mio marito, dove sono cinque figli, sì. Che dire uniti è dire poco. Allora, vedere questa differenza... mi pesa ancora di più. Ecco, però Maria Pia non è che pensa magari di riprovarci con suo fratello, adesso che la differenza dei 7 anni crescendo si riduce? Io ci provo. Però... Certo, sono situazioni davvero dolorose, appunto, non sempre le relazioni tra fratelli sono delle relazioni gratificanti o appaganti, lì probabilmente, non so, ecco, è molto difficile dire queste cose, si rischia la banalità, certo. Però... sicuramente lì probabilmente non ha funzionato qualcosa nell'inizio. Quello che mi chiedo io e che mi sembra interessante in quello che diceva la signora Maria Pia, che certe volte nel proseguo della vita, con i nuovi arrivi, quindi un marito, una moglie, eccetera, possono cambiare le carte in tavola. Sì. Quindi il marito con questa frase così invece allegra, così insomma bella, così come la descrive, non possa aver aiutato un po' Maria Pia nel ripensare, nel poter rimestare, diciamo così, i rapporti con il fratello. Ecco, questo perché qualche volta l'arrivo appunto sul mercato dei nuovi partner cambia anche i rapporti fra fratelli, no? Questo è dato, ci sono molte ricerche dei sociologi in questa direzione qui. Ho sentito aprire la puntata con gli amici si scelgono, i fratelli si trovano. Maria Pia ci dà l'occasione, col suo racconto così sincero e anche accurato, l'abbiamo sentito, di aiutarci a considerare il fatto che a volte anche i fratelli si scelgono, anche i fratelli a un certo punto vanno scelti, cioè non basta essere nati nella stessa casa dagli stessi genitori, ma a un certo punto scatterà quel fattore per cui ti scelgo come mio fratello, e nel momento in cui poi scatta la scelta, allora può scattare tutto il vantaggio. Abbiamo sentito una storia in cui questa scelta che sembrava naturale ma che non è affatto naturale non è accaduta. Potremmo ascoltarne molte altre in cui invece questa scelta a un certo punto è accaduta davvero. Si dice, però, volevo condividerla col dottor Ballerini e la dottoressa Trinci, il 3 è il numero perfetto, ma c'è sempre un po' il fratello di mezzo che non è né il grande né il piccolo, è un po' la fetta di prosciutto, no? La sindrome sandwich, così la chiamano, dottoressa Trinci. Però in effetti essere secondo di tre può essere più faticoso perché non arriva mai il tuo momento. Sì, è vero, questo è vero, no? Però insomma, nella mia esperienza, per esempio, di lavoro, questo non accade, ecco, non è così determinante. Certo, nell'andare a analizzare il rapporto fra fratelli e nella famiglia è di grande rilievo vedere il posto che il bambino occupa, quindi nel momento in cui è nato, che cosa desideravano i genitori, quali sono state le aspettative poste sul bambino. Certe volte riescono anche davvero a ritagliarsi uno spazio intermedio fra l'uno e l'altro, che è anche comodo. Dottor Ballerini. Ma se accade così è perché, insomma, quello che noi pensiamo che sia assolutamente naturale, ossia che fratelli e sorelle nati e cresciuti nello stesso ambiente debbano per forza amarsi, questo di fatto non accade, cioè non è un dovere. Davvero si tratta a un certo punto, quando le cose va bene, che uno scopre che l'altro è vantaggioso. A un certo punto quell'altro che è stato un usurpatore, mi ha portato via il papà, la mamma, mi ruba i giochi, ruba le attenzioni, a un certo punto con quello lì io però posso trafficarci, posso iniziare a giocarci a pallone, posso fare il tè con le bambole. Insomma, si fa di necessità virtù. Si fa necessità virtù e si fa una scoperta. Quindi consigli per i genitori che in questo momento vedono, si accorgono che la situazione, la relazione tra i loro figli è conflittuale, rovinata da una certa gelosia, da incomunicabilità. Il genitore spesso si interviene cercando di ristabilire, no, l'armonia, l'equilibrio, facendo appello ai legami: tuo fratello ti vuole bene, tu sei più grande, oppure sei più piccolo, devi fare quello che dice lui. Dottor Ballerini. Ma io direi di stare attenti a non prendere la parte di qualcuno e semmai di fare un passo indietro. Nel senso che a volte davvero i genitori entrano inutilmente in crisi per le liti fra fratelli, devono un po' imparare a sbrigarsela fra loro. Ah. A volte qualche genitore si scandalizza quando dico: senta, chiuda la porta e vada in cucina. Sì. Dottoressa Trinci? Io riprenderei quanto diceva Ballerini all'inizio, cioè non mettere il per, non polarizzare, cioè non far sì che quello sia quello buono, quello cattivo, perché nel lavoro davvero quotidiano di tutti noi arriva sempre il genitore che c'ha il bambino bravo a scuola, quello che invece va male. Sì. C'è il rischio che poi per trovare davvero uno spazio all'interno della famiglia, il bambino con un'identità ovviamente in costruzione fragile vada a prendere il posto che la famiglia stessa gli dà, certo, vale a dire il bambino, un po' come Gian Burrasca, no? Ricordate, era veramente la birba designata in quella, certo, famiglia. Essere e benessere. Sono fratelli gemelli dei medicinali di marca, sono i farmaci generici o equivalenti. Tutti noi li conosciamo per esperienza diretta o indiretta, ma oggi vogliamo conoscerli più da vicino e lo facciamo col dottor Giuseppe Traversa, primo ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità, dove si occupa di sicurezza ed efficacia dei farmaci. Buongiorno, dottor Traversa, benvenuto. Buongiorno a lei. Dottore, io li ho definiti gemelli, ma forse sarebbe più corretto dire sono una copia del medicinale di marco di riferimento. Beh, in effetti sono una copia, in questo senso qui sono a tutti gli effetti gemelli dei medicinali di riferimento. Un farmaco equivalente per entrare in commercio, quando è scaduto il brevetto del farmaco di riferimento, deve avere lo stesso principio attivo, la stessa sostanza che ha un effetto sull'organismo, deve avere la stessa quantità, la stessa via di somministrazione, deve avere lo stesso livello di impurezze e poi, quando vengono fatte delle prove sull'organismo, deve raggiungere gli stessi livelli di concentrazione nel sangue. E quindi è evidente che quando tutti questi parametri sono rispettati, il farmaco equivalente e il farmaco di riferimento sono esattamente la stessa cosa. Dottor Traversa, un medicinale per ottenere l'autorizzazione di essere messo in commercio deve soddisfare tre requisiti fondamentali: sì, qualità, sicurezza ed efficacia, requisiti che devono essere dimostrati da tutti i medicinali e quindi anche dai farmaci equivalenti. Assolutamente sì, cioè è importante infatti che sia chiaro questo per tutte le persone che assumono farmaci equivalenti, che si tratta dello stesso principio attivo contenuto nel farmaco che ha perso il brevetto, e questo stesso principio attivo è assunto nello stesso dosaggio, come dicevo prima, nella stessa via di somministrazione. E poi è importante che si sappia che questo farmaco, prima di entrare in commercio, viene sottoposto a prove sugli individui per verificare che i livelli che raggiunge di concentrazioni plasmatiche, insomma i livelli ematici, siano gli stessi. Ed è anche importante ricordare che queste prove sono le stesse che si fanno in tutto il mondo, cioè non è che abbiamo, cioè, gli stessi medicinali equivalenti che abbiamo in Italia sono presenti in tutti i paesi europei, sono presenti nel Nord America, in Canada, quindi insomma sono farmaci che hanno veramente lo stesso livello di qualità degli originator, dei farmaci da cui derivano. Tra l'altro prodotti da aziende che nulla hanno che invidiare dalle aziende che producono i farmaci di marca, anche questo è un aspetto che mi sembra sia importante sottolineare e anche chiarire. No, dottore, fa benissimo a mettere l'accento su questo aspetto, perché in effetti una volta c'era questa specie di pubblicità negativa, molto bella come pubblicità negativa ma falsa, cioè che i medicinali generici sono prodotti da aziende da sottoscala. Sì. Non è vero nulla, cioè le la quasi totalità è prodotta da aziende multinazionali o da aziende italiane che per esempio si sono consorziate con altre aziende multinazionali per creare aziende che producono generici, o da grandi aziende di generici che sono a loro volta proprietà delle principali multinazionali che producono i farmaci brand, i farmaci con marchio. Cioè, in sostanza non è vero per nulla che si tratta di piccole aziende, sono grandi aziende che operano in tutto il mercato mondiale e quindi hanno degli standard che sono naturalmente gli stessi delle aziende che producono anche i farmaci coperti da brevetto. Gli standard sono gli stessi, il costo però è inferiore, dottor Traversa. Certo, e questo è un aspetto importante per i servizi sanitari nazionali che coprono la spesa sanitaria o nei casi in cui la spesa sia coperta dai cittadini, è importante per i cittadini. È chiaro che nel momento in cui il farmaco di riferimento, il farmaco di marca perde il brevetto e quindi qualunque azienda può produrre il farmaco equivalente, per un principio di concorrenza i prezzi di questi farmaci si riducono spesso parecchio, si riducono anche del 50, 60, 70% e questo spiega perché la spesa farmaceutica negli ultimi anni, ad esempio in Italia, sia stata tenuta sotto controllo, la spesa farmaceutica territoriale, chiamiamola quella delle farmacie, quella delle prescrizioni dei medici di medicina generale, proprio perché mano a mano è aumentata la quantità di farmaci equivalenti che hanno un costo decisamente minore. Farmaci equivalenti sono solo di automedicazione o anche per malattie croniche? No, i farmaci equivalenti sono per qualunque tipo di malattia. Da banco? E sono sia farmaci, abbiamo farmaci equivalenti da banco, dalla tachipirina, all'ibuprofene, cioè dai farmaci analgesici antipiretici, e abbiamo farmaci equivalenti per trattare l'ipertensione, per trattare il Parkinson, per trattare il diabete, cioè quindi farmaci equivalenti per trattare un'infezione polmonare con gli antibiotici, insomma, quindi abbiamo farmaci equivalenti in tutte le categorie di sostanze, ecco, non solo in quelli da banco. Sentiamo allora il parere del medico di famiglia. In linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori, grazie. Come si comporta il medico di famiglia rispetto ai farmaci equivalenti? Li propone con facilità, incontra delle reticenze? Ma intanto diciamo che l'atteggiamento è stato un po' complesso da parte nostra, perché abituati a prescrivere con il nome di fantasia che viene affidato al brand, non è facile passare e cambiare prescrizione per andare a prescrivere con il nome della molecola, che è quella che poi caratterizza il nome dei generici o equivalenti. È evidente che questo ha comportato proprio un processo culturale da parte nostra, un po' anche poi a volte le imposizioni che vengono dettate, come il decreto del Ministro della Sanità Balduzzi che obbliga certe cose, non trova sicuramente un terreno fertile nel medico di famiglia. Bisogna dire che questi farmaci, come ho sentito, effettivamente hanno veramente tutta la dignità del farmaco brand senza nessun problema. Sono farmaci che funzionano, che hanno gli stessi principi attivi, quindi hanno una equivalenza dal punto di vista farmacologico ineccepibile e indiscutibile. È chiaro che forse una politica migliore dal punto di vista comunicativo li avrebbe fatti gradire di più, sia dal medico che dall'utente finale. E poi bisogna dire però che a volte i nostri pazienti si lamentano di una non omogeneità di questi prodotti. Io infatti consiglio, e qui entra la mia esperienza personale, quella di consigliare di utilizzare il farmaco equivalente sempre della stessa azienda, perché almeno così manteniamo una certa regola nella quantità di principio attivo disponibile e nella disponibilità, biodisponibilità del farmaco. Dottor Traversa, e secondo lei che cosa si potrebbe e si dovrebbe fare per sciogliere le riserve della popolazione nei confronti di questi farmaci? Continuare a dare le informazioni corrette, cioè continuare a ricordare questi principi di base, cioè che sono la stessa cosa. Questo qui è il primo punto. Il secondo, cioè, c'era un suggerimento che dà spesso il professor Garattini che io vorrei richiamare, cioè quello di rendere disponibili i dati in base ai quali un farmaco equivalente entra in commercio, in modo che tutti, dai medici ai pazienti, siano in grado di verificare che sono veramente la stessa cosa. Ancora io penso che potrebbe essere utile fornire, essere trasparenti su tutti i controlli che vengono fatti sui farmaci coperti da brevetto e sui farmaci con brevetto scaduto, sui farmaci con un nome commerciale di fantasia e i farmaci invece solo con nome del principio attivo. Rendere pubblici tutti i controlli che si fanno e quali sono i risultati ottenuti, perché questo secondo me sarebbe un ulteriore elemento di rassicurazione per i cittadini, cioè sapere che questi farmaci, anche quando si fanno i controlli, sono effettivamente completamente uguali. Ringrazio il dottor Traversa per essere stato con noi, per la sua chiarezza, e ringrazio il dottor Gargiulo. Grazie molte per l'invito e spero di essere riuscito a dare qualche informazione in più e aiutare i farmaci equivalenti. Grazie, grazie Nicoletta, grazie agli ascoltatori. E l'appuntamento come sempre torna domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta e buona giornata. Essere e benessere.